La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Buon anno e un saluto a tutti da Franco D'Assisi, la prima puntata interamente del 2012 della nostra rosa purpura dell'appuntamento settimanale con il cinema qui su Radio 24. Una settimana che risente ancora in parte di un clima parzialmente festivo, con ancora i film delle vacanze di Natale da fare da padroni, ma con alcune nuove uscite anche molto significative. È una settimana qualitativamente molto importante che segna proprio l'inizio del nuovo anno cinematografico. Abbiamo il ritorno di Clint Eastwood con J. Edgar, abbiamo il ritorno di Immaturi, che è stata la commedia sorpresa dello scorso anno per quanto riguarda il cinema italiano. Insomma, abbiamo film che possono fare molto al botteghino prima poi della prossima settimana, che sarà quella un po' di una bella infornata di opere del nuovo anno. Ma insomma, concentriamoci su queste, cominciamo subito a entrare nel clima della trasmissione con i contenuti principali nei titoli di testa. Clint Eastwood torna con un film biografico su J. Edgar Hoover, l'uomo che rivoluzionò l'FBI e il concetto stesso di sicurezza degli Stati Uniti. Fatti e soprattutto misfatti di uno degli uomini più potenti d'America, con un Leonardo DiCaprio da Oscar. Aguasaltas.com, un sito, una battaglia. Dal Portogallo arriva, 5 anni dopo la sua realizzazione, una piccola commedia su una mena comunità che cerca di resistere alla prepotenza di una multinazionale, per non perdere le proprie radici. Dopo la maturità a 40 anni, il viaggio in Grecia. Arriva nelle sale Immaturi, il viaggio. Il sequel della sorprendente commedia che ha sbancato il botteghino la scorsa stagione. Confermato l'affiatato cast con Raul Bova, Ricky Memphis e Ambra Angiolini. Altri esami, altre vacanze. Dal Regno Unito la scatenata commedia adolescenziale Finalmente maggiorenni. 4 ragazzi dei sobborghi di Londra alle prese con una molto esplicita e poco riuscita iniziazione amorosa in vacanza a Creta. E questi allora erano i contenuti principali della trasmissione di oggi. Cominciamo subito col cinema italiano. L'abbiamo detto, è stato il successo più sorprendente in termini quantitativi della scorsa stagione cinematografica. Le commedie italiane stanno andando bene da un paio d'anni a questa parte, ma forse da questa commedia, Immaturi, non ci si aspettava il clamoroso successo raggiunto. Clamoroso successo che per una volta non è stato solo di quantità e di pubblico, delle tante persone che lo hanno visto, ma anche di qualità e di critica. Molti sono i critici che hanno, e noi compresi qui dalla Rosa Purpura, che hanno riconosciuto nel film di Paolo Genovese un garbo, un amore anche per il cinema, una passione per il racconto e alcuni personaggi assolutamente ben cesellati. Mi viene in mente soprattutto il trio composto da madre, padre e figlio Ricky Memphis, figlio cresciuto, figlio bamboccione Ricky Memphis, che hanno dato a questo film davvero un salto in più. Come si poteva evitare il sequel? In questi casi chiaramente è praticamente impossibile. E allora ecco i nostri protagonisti, dopo essersi ritrovati per affrontare gli esami di maturità a 40 anni, ritrovarsi a questo punto, visto che le amicizie e i fili si sono riallacciati, per una vacanza che ricorda molto quelle dei viaggi e dei tempi della maturità. E allora tutti su un'isola della Grecia per Immaturi 2, oppure se preferite Immaturi il viaggio. Lo ha visto per noi Barbara Righini. Ah, tu mi dici Maros? No, io vi ricordo che è 10 d'agosto, eh. Come ci sono solo 3 posti? Oh, la bambina no, eh. A un anno dal successo di Immaturi, 16 milioni di incasso contro ogni previsione, Paolo Genovese ci riprova. Stesso cast del primo film, questa volta il regista romano porta i suoi protagonisti in viaggio in Grecia. Tutti hanno superato l'esame di maturità, anche se hanno compiuto i 40 anni, e pensano di meritare una vacanza. I 7 partono battaglieri, decisi a divertirsi. Allora, domani il giro dell'isola in gommone e dopodomani il villaggio dei pescatori. Ti sei fissata con sto gommone? Imperdibile l'isola vista dal mare. Lorenzo e Giorgio, l'uno prossimo al matrimonio e l'altro alla paternità, incontrano subito le prime difficoltà, la tentazione del tradimento delle rispettive compagne. E così finiranno per passare tutta la vacanza a sfuggire a 2 spagnole che rischiano di mandare a monte i piani familiari per il futuro. Io comincerei con il Barbarossa, vanno tutti là. Ma se vanno tutti là? No, no. Come no? Se vanno tutti là, andiamo là. Sì, dai, oh, ho voglia di vedere un po' di casino. Ma che casino, ma perché dobbiamo fare i pecoroni? Distinguiamoci, no? Francesca dovrà arrendersi all'idea che le vacanze di gruppo non hanno più lo stesso sapore di un tempo. L'inguaribile rubacuori Piero questa volta resterà deluso, biffato da una serie di bugie che finiranno per fargli perdere l'occasione della vita. Mentre Virgilio, preso in un rapporto virtuale, scoprirà che l'amore è molto più a portata di mano di quanto pensasse. Fagli una curiosità. Ma se non fossi stata con Giorgio, me l'avresti dato quel bacio? No. No. No. Non è piacere. Parli con me o scrivi messaggi? No, è successa una cosa assurda. Cioè? Leggi. Trouble is her only friend and he's back again. Non un remake, bensì due. Mentre in Maturi il viaggio arriva in 700 sale, il primo film attira l'attenzione di Francia e America. Il regista annuncia che in entrambi i paesi si lavora appunto a una rivisitazione della fortunata intuizione di Genovese. I protagonisti del film avranno anche superato l'esame di maturità, ma la vita li mette ogni giorno alla prova, anche in vacanza. Il regista riflette su fedeltà e tradimento e sull'opportunità o meno di confessare al partner una scappatella. Il clima è divertente, con gag azzeccate qua e là, la regia a ritmo e le battute non sono mai scontate. C'è equilibrio poi fra le varie storie senza che l'una prevalichi l'altra. Ma Genovese azzarda, inserendo anche il tema della malattia, mettendo così un po' troppa carne al fuoco. E la vena malinconica fa capolino in diversi momenti del film. È la nostalgia, il sentimento su cui fa perno la storia, il rimpianto per la spensieratezza tipica della gioventù, che non tornerà. In Maturi il viaggio può contare poi su un cast affiatato. Tutti gli attori se la cavano egregiamente, ma l'interpretazione delicata che sfiora i toni drammatici di Paolo Kessisoglu si fa notare più delle altre. Un film che di certo piacerà a chi ha amato il primo e a chi, appesantito dalle preoccupazioni per la crisi economica, ha voglia di ritagliarsi un'ora e mezza di leggerezza. E questa era Barbara Reghini con i protagonisti di Immaturi, il viaggio nei cinema italiani da questo primo fine settimana, come dicevamo, interamente del 2012. La rosa purpurea. Quando c'è degrado morale e gli uomini onesti non fanno nulla, il male si diffonde. Una società che non impara dal passato non ha futuro. Non dobbiamo mai dimenticare la nostra storia. Non dobbiamo mai abbassare la guardia. E avete sentito le parole d'ordine di J. Edgar Hoover, l'uomo che di fatto rivoluzionò non solo l'FBI, ma il modo di tutta l'America di intendere la sicurezza e la lotta per mantenere la sicurezza sociale. J. Edgar è anche il titolo del nuovo film di Clint Eastwood, il ritorno del grande Clint con uno straordinario Leonardo DiCaprio nei panni appunto di J. Edgar Hoover, con trucco che lo rende anche simile nell'arcata sopraccigliare al piglio del capo dell'FBI, e poi un cast importante che va già da Judi Dench a Naomi Watts, Armie Hammer, Ed Westwick e tanti altri. Allora, un'America, quella fra le due guerre, nella quale J. Edgar Hoover era cresciuto. Il giovane era già molto attento, molto ricettivo, molto sensibile ai temi della sicurezza, in quella che era la sicurezza dal pericolo comunista. Già allora i primi moti socialisti negli anni 30 del Novecento si diffusero anche negli Stati Uniti, attentati, bombe, e J. Edgar, figlio di un padre piuttosto debole, di una madre, come sentiremo, molto autoritaria, era ossessionato da questo tema della sicurezza. Ne fece la sua bandiera, la sua vita. Il tentativo era proprio quello di provare a dare al paese una mano per tentare di mantenere questa situazione, che non fosse poi a scapito del paese. Dicevamo appunto una madre molto autoritaria, ed è una figura che lungo tutto il film e lungo tutta la vita di Hoover si era fatta sentire. Ne ho fatti fare due, stesso taglio, diversa stoffa, e due completi per te. Venerdì ce li consegnano. Grazie, mamma. L'ho detto a tutto il vicinato della tua promozione. D'accordo. Sono incredibilmente fiera di te, Edgar. Qui è quando la mamma gli prepara i vestiti nuovi, gli abiti nuovi, perché c'è un nuovo ruolo, perché Hoover è entrato nel Federal Bureau of Investigation, appunto noto come FBI, che esisteva già, quindi non è lui che lo fonda, ma insomma era una sorta di organismo poco riconosciuto, di cui i vari sceriffi e giudici e governatori locali si facevano un po' gioco. Fu proprio Hoover a entrare quasi dalla porta di servizio, giovane e ambizioso, a portare tutto il suo entusiasmo e anche le sue capacità innovative in termini di investigazione, schedare le persone, le impronte digitali, tutta una serie di norme appunto investigative che all'epoca erano totalmente sconosciute nella polizia degli Stati Uniti, tantomeno nella polizia federale, che come dicevo aveva sicuramente meno peso rispetto a quella locale. Fu proprio Hoover a trasformarla, a prendere il potere, a lavorare con la sua ambizione dentro uno spazio totalmente vuoto, nel quale nessuno gli diceva sostanzialmente nulla, poteva fare quasi quello che voleva, fino a quando la sua importanza non diventò tale da rivoluzionare l'ufficio. È mia opinione che chi fa parte di questo bureau abbia il dovere di comportarsi sia in ufficio che fuori dall'ufficio in modo da eliminare anche la minima possibilità di critica alla sua condotta. Lei ha ancora i peli sulla faccia, agente Stokes. Le signore li apprezzano. E suppongo che le loro opinioni contino più di quelle del bureau. No, signore. Penso che lei sia più idoneo al corpo di polizia che al Bureau of Investigation. Sono qui al dipartimento e al bureau da 7 anni, Edgar. Quasi tanto quanto te. No. Lei è stato al vecchio bureau per 7 anni e quel bureau ora è defunto. E lo è anche lei. E questa era appunto la teoria, la filosofia di J. Edgar Hoover. Il caso che lo lanciò, che viene raccontato con grande peso nel film da Clint Eastwood, che lo lanciò proprio all'attenzione popolare in America, fu il caso del rapimento del figlio di Lindbergh. Ora Lindbergh, il signore del cielo, aveva una tale popolarità dopo la traversata che chiaramente era una superstar totale anche nel mondo non ancora così mediatico dell'America di quegli anni. Ebbene, il rapimento di questo bambino, che poi fu ritrovato morto a pochi metri da casa, scatenò le attenzioni dell'opinione pubblica e anche le velleità della polizia locale, che voleva cercare di indagare nelle solite maniere. Ma sul luogo del delitto venne chiamato proprio l'FBI di Hoover, e fu quello un po' il caso nel quale Hoover ebbe la sua consacrazione popolare. È caduto da 1,5 metri. Chi? Il rapitore, signore, con il bambino in braccio. È un'ipotesi, signor Hoover. Dov'è la richiesta di riscatto? Eccola. E lei tocca anche quella a mani nude? Controllato. Niente impronte delle dita che lei considera tanto preziose, signor Hoover. Me la dia qui, signor Schwarzkopf. Colonnello Schwarzkopf. Voglio questa lettera. E la scala. Non c'è giurisdizione federale qui. Ha visto quello che voleva, ora deve andarsene. Signor Lindbergh, la prego. Signor se lei Hoover, ha un momento, grazie mille. Come vede, qui è tutto sotto controllo. Grazie, signori. Arrivederla, signor Lindbergh. Ecco lo scontro fra le polizie locali e federali. Il caso Lindbergh non, purtroppo si risolse male, come dicevamo, ma ugualmente a quel punto J. Edgar era diventato il numero uno, era diventato l'uomo della sicurezza, era percepito, addirittura disegnato nei fumetti dai bambini, era percepito come un vero e proprio eroe. Tutto questo potere in una persona così ambiziosa, così dotata, ma anche così succube di una determinata serie di anomalie, appunto il ruolo della madre per esempio, era una cosa pericolosa. Infatti Edgar a un certo punto cominciò a usarla male, cominciò a usarla troppo forse, e la sua legalità divenne anche illegalità, soprattutto nel cominciare a schedare abitudini di nascosto ovviamente dai propri protagonisti, abitudini, usanze, telefonate, movimenti dei potenti. Sentiamo questa clip che racconta un po' un dialogo con Kennedy. Adesso ha un'altra faccia il comunismo, Edgar, e non è questa. Il comunismo è una minaccia straniera adesso, non americana. Signor Kennedy, prima ancora che lei venisse al mondo, io sentivo usare questo stesso argomento dal signor Mitchell Palmer. Sa cosa ci volle per farlo ricredere? Una bomba. Ora, io non voglio che questo succeda a lei o a suo fratello, signore. Non c'è motivo per cui non possiamo avere entrambi ciò che vogliamo. Lei ora può andare, signor Hoover. Le trascrizioni me le lasci qui. Ah, si senta libero di farle leggere a suo fratello. Ah, e gli dica anche che io ne ho comunque una copia in cassaforte. E questa era la minaccia che seguiva un po' quasi tutti gli incontri con i potenti. Quell'archivio poi non fu mai trovato. Merito anche, da un certo punto di vista, della diligente Miss Gandy, la sua prima fiamma, ma poi diventata subito la sua segretaria della vita. Anche perché di fiamme, il film ce lo racconta, ed è, se vogliamo, la vera storia d'amore del film, quella che va avanti per tutto il film, un po' come Sherlock Holmes e Watson, da un certo punto di vista, è proprio quella fra J. Edgar Hoover e il suo assistente interpretato da Armie Hammer. Si capisce dall'inizio che c'è un'omosessualità molto più che latente che unisce i due, da quando appunto J. Edgar lo assume, gli dice: ho bisogno assolutamente di te, agli screzi, ai litigi, un amore non corrisposto che però Clint Eastwood ci mostra con grandissima delicatezza e in tutte le sue sfaccettature. Un amore impossibile perché la figura pubblica di J. Edgar Hoover rendeva impossibile chiaramente una situazione di omosessualità conclamata, ma J. Edgar non riuscì mai neanche a darsi fino in fondo a nessuna donna, e nei momenti dell'intimo, nei momenti del privato, il film ci racconta come il suo cuore battesse veramente per il suo compagno. Signor Tolson, io ho bisogno di uno di cui fidarmi, voglio fare di lei il mio vice, capisce? Ho bisogno di lei. Pensa se ogni cittadino di questo paese fosse identificabile solo dall'impronta delle sue dita. Pensa come scoveremmo rapidamente chi commette un reato. Ha presente il dossier che abbiamo raccolto su sua moglie? La signora Roosevelt. Me ne faccia una copia, per favore. È legale. Qualche volta occorre piegare un po' le regole per garantire la sicurezza del paese. Ho capito cosa sei! Un ometto senza cuore, meschino e spaventato! Allora, questo è il racconto di J. Edgar, dei rivoli di questo bel film biografico di Clint Eastwood. Adesso giochiamo insieme, fra poco sentiamo le voci di Clint Eastwood e di Leonardo DiCaprio. E allora, prima traccia del film misterioso di oggi, sentiamo. Non vorresti diventare parte di una vera famiglia? Io ce l'ho una famiglia. Sì, ce l'hai. È vero, hai un padre e una madre, ma... e loro non vivono con te. Per ora. Ma comunque tu non hai nessun contatto con loro. Sì, invece... La Rosa Purpurea, @radio24.it, come sempre, se avete indovinato di che film si tratta, scrivetecelo con il vostro indirizzo per provare a vincere questo film. Più tardi ci saranno altre due possibilità. E allora, le note ancora della colonna sonora di J. Edgar. Dobbiamo sentire le voci e anche tirare un po' le somme di questo film, che è un film solidamente biografico, come dicevo, un Clint Eastwood un po' diverso in questo senso, che però ha... ovviamente tanti piani di lettura, come spesso capita col suo cinema. C'è appunto questo filone legato alla vita personale di J. Edgar Hoover, e quindi al comprendere un uomo che molto spesso è stato accompagnato a livello di giudizio, da un giudizio, diciamo, palesemente o comunque complessivamente negativo, una figura di potere corrotto, di potere usato male, usato troppo, eccetera. Ma Clint Eastwood, come sempre, ci racconta anche l'altra parte, quella che c'era alle spalle e quella che invece funzionava. Ma quello che forse è più interessante è, ancora una volta, come in tutto il cinema di Clint Eastwood, è il ragionamento sull'America, è il ragionamento sul potere, sulla possibilità di corruzione e di controllo del potere, il ragionamento su un'America che perde l'innocenza, appunto identificata qui nel rapimento del bambino Lindbergh, come fu in Changeling, nello scambio dei bambini, ricorderete il film di Eastwood con Angelina Jolie, di un'America incapace di relazionarsi proprio alla perdita dei suoi valori fondamentali. E questo è forse l'elemento di maggiore attualità di un film che ha, come dicevo, un impianto robustamente filosofico e biografico, e che è interpretato divinamente da un grandissimo Leonardo DiCaprio, che è in pole position assoluta per l'Oscar dopo questa interpretazione. E allora sentiamolo. Ciò che credo di aver capito e ciò che mi è piaciuto è che erano due uomini al servizio del loro paese. E se avevano attrazione l'uno per l'altro, se avevano dei sentimenti, questo non era rilevante, e quindi lo soffocarono. Non era concesso loro di avere una vita personale. avrebbe distrutto il loro status sociale, il loro lavoro, e automaticamente messo a rischio il loro paese. Così la soffocarono. Erano uomini dello Stato, uomini in servizio in un'epoca diversa dalla nostra. Non sono d'accordo con queste idee, ma riesco a capirli, loro e il loro comportamento. Quanto Clint Eastwood invece così ha risposto a chi gli chiedeva appunto conto della doppia personalità o quantomeno delle due sfaccettature che lui ha rappresentato della figura di J. Edgar Hoover. Credo che sia un enigma che nessuno mai risolverà. Nessuno mai potrà sciogliere questo mistero. D'altra parte è sicuramente molto più divertente fare congetture sulla storia di qualcuno che ha fatto così tanto e cercare di risolvere il mistero piuttosto che sapere tutto su di loro e sulla loro storia. E proprio di Clint Eastwood ci parla ancora Leonardo DiCaprio, il suo rapporto con questo vero e proprio totem, non solo della regia, ma proprio del cinema e della recitazione a tutto tondo. Come è stato lavorare con Clint? Quando lavori con una persona così istintivamente, sei portato a fidarti come se fosse il tuo Dio. È come se il suo punto di vista diventi contagioso perché inizia a darti fiducia come attore. E il tuo istinto, le decisioni che prendi, lui rappresenta sempre la verità, seduto lì di fianco, che ti guarda immobile e senti che deve restituire verità alla tua recitazione ogni giorno. Non ha molte persone intorno che lo consigliano. Sì, ci sono le persone con cui lavora da decenni, ma alla fine della giornata è sempre lui che prende la decisione finale. Ha fiducia in se stesso come artista e penso che molte persone dovrebbero rendersene conto. Con lui o così o niente da fare. E allora questo era Leonardo DiCaprio, questi erano i protagonisti di J. Edgar, il nuovo film di Clint Eastwood nei cinema italiani. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, terza parte del nostro programma. Come dicevamo, siamo adesso agli altri film della settimana. Ne abbiamo raccontati due, ce ne sono altri due che arrivano nelle sale cinematografiche. Anzi, per la verità, uno è arrivato in sala un po' la chetichella da qualche giorno. Si intitola Aguasaltas.com. È un piccolo film portoghese, pensate, del 2006, che arriva per giri strani della distribuzione italiana proprio durante queste vacanze di Natale, a cercare un qualificato circuito di sale e a cercare un pubblico che merita, nonostante i 5 anni passati. È un film che si fa guardare ancora, una commedia molto molto garbata ambientata proprio in questo villaggio Aguasaltas in Portogallo, un posto totalmente incantevole in mezzo a una vallata verde con un bellissimo lago che è stato creato insomma dalla realizzazione di una diga. E c'è questo paesino affacciato che è un piccolo borgo con una cinquantina di abitanti, chiaramente come in tutte queste situazioni abitudini, conoscenze, difetti e pregi sono tutti conosciuti a tutti gli abitanti del villaggio. Questo villaggio sta cercando di uscire un po', diciamo, dall'anonimato, sta cercando un turismo che magari darebbe uno sviluppo, una crescita al luogo, e per fare questa ricerca si affida a un sito internet, appunto aguasaltas.com. In questo sito si vedono ci sono i 50 che sono quasi come quelli di un Grande Fratello un po' allargato, i 50 abitanti del posto che hanno un loro video quotidiano, una sorta di webcam che racconta che cosa fanno, e tutto questo per chiedere appunto la realizzazione di una strada e di un ponte che possano far arrivare, transitare i turisti da quelle parti. A essere promotori di questa iniziativa sono due fratelli che cercano appunto di tenere alta l'attenzione anche attraverso l'utilizzo di internet. Cosa succede a molti chilometri di distanza, esattamente a Madrid, quindi in Spagna, un altro paese? Poi sapete la rivalità fra Portogallo e Spagna. Succede che una multinazionale invece delle acque minerali sta per lanciare una nuova acqua minerale che si chiama Aguasaltas, e chiaramente, come si fa con quelli avvezzi che sanno quello che devono fare, ha registrato il sito aguasaltas.com. E quindi succede che per aprire questo sito, quando è finalmente il marketing dice che è il momento di lanciare queste acque minerali, si trovano il sito occupato, l'indirizzo occupato da quelli del villaggio che non hanno però registrato il sito. Ed ecco che nasce questa questa sorta di rivalità prima e poi proprio di causa giudiziaria di carattere legale per l'utilizzo di un sito che diventa però chiaramente la metafora di una battaglia fra il locale e il globale, fra le tradizioni, le radici e quello che radici non ha, che appunto la globalizzazione, fra Davide e Golia. Ci sono tutte le letture che volete, fino a quando i due mondi non si incontreranno. Ve lo racconteremo dopo aver ascoltato la clip. Trasmettiamo in diretta ad Aguas Altas per darvi conto della situazione drammatica che si vive qui. Tutta la popolazione del villaggio si è riunita per conoscere la reazione della Drinam al loro rifiuto di cedere il sito. Abbiamo con noi in diretta da Madrid Rita Diego, vicepresidente esecutivo della Drinam. Rita, mi sente? Sì, sì, perfettamente. È vero che la Drinam intende denunciare Aguas Altas per violazione di un marchio internazionalmente registrato? È politica della Drinam difendere i suoi marchi. Perfino contro la volontà di un villaggio il cui nome è guarda caso identico? Se il villaggio cede, desisteremo immediatamente da qualunque azione legale. E se il villaggio non cede? Allora che si preparino a una lunga e costosa battaglia giudiziaria. Aguas Altas è nostra e nessuno può portarcela. Se vogliono il sito, lo pagano. Ecco, come potete vedere, amici, qui ad Aguas Altas sono pronti per la battaglia. Insomma, avete sentito, pronti per la battaglia, il villaggio si interroga, il villaggio vota, fa le riunioni in chiesa, litiga, ma non si piega assolutamente. E questo è chiaramente ciò che fa infuriare quelli delle acque minerali, che da Madrid mandano un'emissaria proprio dalle parti di Aguas Altas. Questa emissaria dividerà il popolo locale, perché arriva appunto dicendo che se loro si decidono a vendere questo sito internet, non solo non pagheranno le penali, ma anche ricaveranno dei soldi. E sul tema dei soldi la piccola comunità, come dire, è piuttosto sensibile. Però c'è chi è assolutamente intransigente e non si vuole arrendere. E quindi le cose vanno avanti fra amori, sapori, dissapori, cambiamenti di schieramento. Per raccontare appunto un piccolo mondo antico, se volete, la riflessione è che certo questo tipo di iniziative, cioè i piccoli che si consorziano attraverso un sito internet per chiedere i propri diritti, forse nel 2006, ben 5 anni fa, va detto, era una cosa ancora abbastanza nuova, diciamo così, relativamente nuova. Nel 2011 forse lo è un po' meno, e la visione 5 anni dopo di questo film forse dà un attimo quel senso di déjà vu sotto il profilo proprio della storia, però sotto il profilo della bellezza dei luoghi, della simpatia degli attori, del garbo con il quale la storia viene raccontata, e anche dei valori universali, che sono sempre quelli appunto di una locale che vuole cercare di misurarsi col globale, sapete, no? Della fusione, della crasi glocal. Ecco, questo è proprio un film glocal, perché non c'è chiusura da parte degli abitanti di Aguas Altas, c'è la voglia di svilupparsi senza perdere però la propria dignità, i propri diritti, il proprio territorio, le proprie tradizioni. E questa è forse la funzione più importante di questo film, che farete forse un po' fatica a trovare nelle sale, perché come ci raccontavano quelli dell'ufficio stampa della distribuzione, non è stato facile farlo arrivare in sala. C'è un diciamo piccolo novero di sale che lo hanno programmato a livello locale, ma nelle grandi città potreste trovarlo. Informatevi, aguasaltas.com, trovate sicuramente tutto. E se volete passare ancora qualche giorno festivo, diciamo in questo ultimo weekend delle feste natalizie, con un film un po' particolare, un po' diverso, ma anche molto divertente, potete farlo con aguasaltas.com. E a questo punto siamo arrivati nuovamente al game, siamo arrivati nuovamente al nostro gioco. Andiamo a sentire la seconda traccia del film misterioso di oggi. Tutto è arrangiato dalla natura, governato dalle leggi della fisica dell'intero universo. È un suono armonico, un'energia, una lunghezza d'onda, e se non la cavalchi, buon Dio, non la sentirai mai. Secondo te da dove arriva quello che sento? Credo che arrivi da ciò che è intorno, voglio dire, arriva dentro di noi. Alcuni di noi. La Rosa Purpurea @radio24.it, come sempre vi invito a inserire il vostro indirizzo di posta ordinaria per accelerare le pratiche di spedizione del film, qualora voi siate i più veloci del sabato e della domenica, per vincere questo film. Più tardi ci sarà l'ultima possibilità. Allora, siamo all'ultima proposta cinematografica di oggi. Qui devono aprire le orecchie soprattutto gli adolescenti, gli amanti del teen movie americano. Avete presente quegli scary movie, quei American Pie, eccetera, eccetera, eccetera. Quei film, insomma, dove c'è una volgarità assurda addirittura per il livello che raggiunge. Un grande divertimento, grandissime battute a sfondo sessuale. Insomma, non roba per puristi del cinema, ma insomma per chi si vuole divertire. Questo è diventato chiaramente un genere, e questo genere oggi non lo fanno solo gli americani, lo fanno un po' dappertutto, lo fanno sicuramente gli inglesi. Questo è tra l'altro una serie che in Inghilterra, nel Regno Unito, ha un grosso successo, un po' come può essere per i soliti idioti qui da noi. Arriva finalmente maggiorenni, arriva nelle sale cinematografiche nella sua versione appunto per il grande schermo. Cosa racconta? Quattro amici un po' sfigati della periferia di Londra, Will, Simon, Jay e Neil, che hanno appena concluso la maturità, insomma, le loro strade stanno per separarsi. Uno di loro, Simon, è stato appena mollato dalla ragazza, decidono di organizzare la classica vacanza estiva prima di salutarsi. Lo fanno chiaramente nei classici posti del divertimento estivo, perché hanno pochi soldi e devono cercare di far il pieno di ragazze secondo le loro ambizioni. Le cose non funzioneranno esattamente così. Cominciamo a sentire la prima clip. Ciao mamma di Jay, dov'è Jay? Oh, ciao Neil, è a casa ad aggiornare il curriculum. Porcona, ti piace vedermi così, eh? Oh, non scherzarci prima delle vacanze! Auguri per il vostro futuro e cercate di non ammazzare nessuno. Non lo possiamo garantire. Simon, dobbiamo parlare. Oh, no, parlare no! Voglio rompere con te. Ora che ti ha mollato, possiamo fare una sballosa vacanza insieme. Due settimane di sole, sabbia, salsedine, spronze e sesso. In foto era meglio. Le cose non andranno esattamente così, proprio a partire dall'albergo molto molto più fatiscente di quello che ci si aspettava, e poi le ragazze non saranno così tante, almeno all'inizio, perché le cose a un certo punto sembrano migliorare. Ci daremo sotto e sopra e di lato, i soldi ci sono. Ah! Non dovete entrare sbavando e andare dritti a presentarvi. Ballate intorno alla ragazza, occhietto languido, e poi invitatela in pista. Davvero? Guardate me. Papà l'americano. La cicciottella è insaziabile. Questo posto è a posto, ma i pasti? Ci guarda. Salve! Non ho mai avuto rapporti intimi. Sei vergine, grande. Non lo definirei grande. Allora tenero, ok? Così assomiglia a Muscio. E allora, avete capito, insomma, un incrocio tra American Pie e la realtà suburbana britannica, finalmente maggiorenni. Il titolo originale è The In-Betweeners, in-between sarebbe proprio l'adolescenza sostanzialmente. Grande successo alla TV, grande successo in patria anche per quanto riguarda il film. Da noi forse alcuni canoni non sono esattamente quelli che il pubblico, anche giovanile, si aspetta, però al di là è scremato da una grande volgarità di fondo, come vi dicevo, insomma, anche esplicita, quindi insomma non è proprio per ragazzini molto piccoli. Rimane, a mio modo di vedere, uno sguardo anche un po' malinconico, se vogliamo, sulla gioventù sempre alle prese, sempre con ansia da prestazione, sempre alle prese con un'idea di se stessa, del proprio successo, quello con la S maiuscola, che poi non risulta mai essere qualcosa di estremamente realistico e di estremamente raggiungibile. Questo forse è il messaggio più interessante, se mai ce n'è uno, oltre al divertimento spiccio, di questo film, finalmente maggiorenni. La rosa purpurea. Eccoci alla quarta parte e conclusiva parte della nostra rosa purpurea di questa settimana. Abbiamo analizzato tutti i film che escono al cinema in questo primo weekend completamente 2012 dell'anno cinematografico. Adesso, come sempre, nell'ultima parte del nostro programma dedichiamoci ai film da vedere, recuperare, registrare, rivedere in televisione e in un video, insomma nel cinema da vedere a casa, comodamente seduti sul divano, anche se io lo dico sempre, quello non è vero cinema, ma insomma noi ce ne occupiamo in maniera abbastanza generosa qui alla Rosa Purpurea, perché ci rendiamo anche conto ovviamente che molto spesso è il modo, soprattutto per il cinema del passato, per recuperare guardare film che altrimenti non si potrebbero vedere. Cominciamo subito con gli amici del settimanale Film TV, che come sempre hanno dato una spulciata per noi ai palinsesti della prossima settimana. È in collegamento con noi Giulio San Giorgio, che saluto. Ciao Giulio. Allora, cominciamo subito con la prima proposta dai palinsesti televisivi in chiaro e gratuiti della prossima settimana. Ciao Franco, un saluto e bentornati con le segnalazioni di Film TV. Questa settimana segnaliamo Non drammatizziamo, è solo questione di corna, mercoledì su Rete 4 alle 1.50. Il titolo originale è Domicile coniugale, e nel domicilio coniugale si misura Antoine Doinel, l'alter ego di François Truffaut, interpretato da Jean-Pierre Léaud, che qui, mentre mette al mondo una bellissima creatura, si invaghisce di un'altra donna. Quarto film della saga su Doinel, è un Truffaut minore, leggero, ebrioso e raffinatissimo. Questo per quanto concerne la prima proposta. Come sempre ogni settimana noi cerchiamo di darvi un paio di alternative. Qual è l'altra proposta di Film TV di questa settimana, Giulio? La seconda segnalazione invece è Million Dollar Baby, venerdì su Rai Movie alle 21, una cameriera con la passione per il pugilato, un vecchio allenatore che l'accoglie sotto la sua ala come se fosse la figlia con cui ha rotto ogni rapporto, l'ascesa nel campionato di boxe e un colpo scorretto che la riduce in fin di vita. Il fuggire la passione laica di questo personaggio marginale che si riscatta e riprecipita sotto lo sguardo di un padre, essenziale, asciutto, schivo, è una devastante riflessione sul concetto di responsabilità. E allora grazie a Giulio San Giorgio della redazione di Film TV, appuntamento alla prossima settimana. Ciao Franco e alla prossima con le nostre segnalazioni. Bene, allora questo per quanto concerne il cinema che passa in TV. Adesso occupiamoci invece di un video e lo facciamo come sempre cominciando col nostro gioco. C'è da sentire la terza e definitiva traccia misteriosa del film di oggi. Ah, signor Rush. Vi chiedo scusa. Perché mai si sta scusando, August? Qualche volta non sono molto attento e non faccio i compiti a casa come dovrei. Ma sono sicura che farà di meglio in futuro. La Rosa Purpurea, @radio24.it. Se avete indovinato di che film si tratta, a questo punto dovreste proprio avere indovinato. Vi raccomando il vostro indirizzo di posta per agevolare le operazioni di spedizione, qualora siate i vincitori del DVD messo in palio il sabato e la domenica. Per quanto concerne invece il gioco di 7 giorni fa, avevamo sentito questa traccia. Non mi lamento mai, mi lamento quando lei si esercita con il violino alle 3 di notte, del suo caos, della sua mancanza di igiene o del fatto che mi ruba i vestiti. È più un baratto. Mi sono mai lamentato del fatto che dà fuoco ai miei alloggi. I nostri alloggi. Gli alloggi. Mi sono mai lamentato dei suoi esperimenti sul mio cane. Nostro cane. E beh, avete capito, si trattava del primo Sherlock Holmes, lo Sherlock Holmes che ha rilanciato, ridato vita a questo personaggio a livello cinematografico in tutto il mondo, Robert Downey Jr., Jude Law, grande coppia che tra l'altro è campione di incassi anche in queste vacanze natalizie con il nuovo film Sherlock Holmes, Gioco di Ombre. Ebbene, mentre il secondo film è in sala, noi abbiamo voluto giocare, anzi direi rigiocare con il primo, perché noi avevamo già fatto un game con il primo Sherlock Holmes, ma questa volta le cose sono davvero speciali, perché la Warner è uscita con un'edizione davvero da collezione del primo Sherlock Holmes, che ci racconta il nostro Claudio Poffi, che è già in collegamento con noi. Ciao Claudio! Eccoci Franco, un saluto agli amici in ascolto. Allora, questa nuova edizione alta definizione per Sherlock Holmes dedicata ai collezionisti da parte di Warner, c'è questo esclusivo libro dedicato alla produzione del film e ai suoi personaggi, lo ricordiamo, i Blu-ray di eccellente qualità, sicuramente per la parte video, c'è la solita traccia Dolby Digital in italiano identica al DVD, per un effetto cinema bisogna sicuramente passare all'originale traccia in inglese ad alta risoluzione. Tanti gli extra, su tutti segnalo la possibilità di visionare il film con la funzione immagine nell'immagine e contestuali approfondimenti sulla lavorazione proprio in compagnia del regista Guy Ritchie. E allora questo per quanto concerne il game della scorsa settimana, il ritorno di un grande film come appunto Sherlock Holmes. La critica si è divisa sul fatto che fosse meglio il primo o il nuovo, l'attuale film. Personalmente ho molto amato il primo, non trovo all'altezza, completamente all'altezza il nuovo, che è attualmente in sala, almeno non del tutto, soprattutto nella prima parte. Poi devo dire che anche questo decolla e a livello di azione sicuramente non ne fa mancare, e soprattutto la parte finale è una vera e propria partita a scacchi, e chi ha visto il film sa a che cosa mi riferisco. Bene, allora, questo era il game della scorsa settimana. A questo punto le recensioni invece di oggi. Cominciamo con un film che è molto caro, molto amato da chi ama il genere dell'animazione d'autore, diciamo così, del cinema che è molto, diciamo così, debitore al graphic novel, a tutto il mondo dell'illustrazione dell'immagine. È un film di parecchi anni fa ormai, forse capostipite anche di un nuovo modo di vedere l'animazione. Si intitolava Heavy Metal. Che diavolo! I miei elettori stanno diventando verdi e gli crescono le braccia sulla schiena! C'è qualcosa o qualcuno là nello spazio e gli elettori hanno il diritto di sapere di che si tratta! Senatore, non c'è alcuna prova che queste mutazioni dipendano da interferenze provenienti dallo spazio. È arrivato il professor Herrick, sentiamo cosa ci dice in merito. Prima di tutto, non c'è ragione di allarmarsi. Un astronauta di rientro dalla Terra porta con sé una misteriosa sfera verde che, una volta presa in mano, lo disintegra davanti agli occhi atterriti della giovane figlia. La sfera è il mortale Lochnar, che raccoglie in sé tutto il male dell'universo e, prima di annientare la ragazzina, inizia a vantarsi con lei di quanto sia bramato e della lunga scia di morte che lo accompagna. Opera cult di animazione, classe 1981, con 8 episodi animati legati da racconti della sfera verde, ma nettamente diversi l'uno dall'altro per stile e autore, che si sono ispirati all'omonima rivista francese Metal Hurlant. La produzione fu di Ivan Reitman e la colonna sonora naturalmente in stile heavy metal. Da Sony Pictures Home Entertainment è arrivato il Blu-ray, qualità sicuramente superiore al DVD, però attenzione che spesso si riscontra molta grana legata con tutta probabilità agli originali concept grafici. L'audio EDTS alta risoluzione sia in italiano che in inglese, c'è dinamica limitata, comprensibile vista l'età del film. Tra i tanti extra segnaliamo la versione del film in modalità cosiddetta previsualizzazione, con i disegni ancora grezzi, sorta di work in progress, addirittura con il commento opzionale dell'americano Carl Masek, curatore di produzioni animate ed esperto del film. Beh, questa deve avere una straordinaria possibilità. Tra l'altro, prima, in un eccesso di generosità, ho dato 20 anni a Heavy Metal, in realtà ne ha 30, ma sarà che non voglio arrendermi al tempo che passa. E allora, questo era Heavy Metal, quindi, che arriva in un video, così come un film di grande spessore critico e visivo. Stiamo parlando di Prima della pioggia, Before the Rain, Leone d'Oro 1994 al Festival di Venezia, il film di Milcho Manchevski. La Macedonia non è sicura. Ma sì che lo è. È il luogo dove i bizantini catturarono 14.000 macedoni e gli cavarono gli occhi e li rimandarono a casa. 28.000 occhi. Hai un contratto con l'agenzia? Ah, se lo possono sbattere il mio contratto. Alex, non mollare. È importante prendere posizione. Prendere posizione? Sì. Non voglio stare dalla parte di nessuno, di nessuno. Tre storie disposte secondo una sequenza temporale di tipo circolare, tre significativi titoli, parole, volti, immagini. La prima e l'ultima storia è ambientata in Macedonia, la centrale in quel di Londra. Tutto ruota attorno a un fotoreporter che ha avuto successo nella professione, ma sente sempre più il senso di isolamento, di non appartenenza, esule che da Londra tornerà nel villaggio natio macedone e ritroverà l'amata donna albanese di un tempo. Il regista Milcho Manchevski dirige tre movimenti dal forte spessore emotivo per raccontare l'odio interetnico, il fanatismo fondamentalista, il dramma della guerra che dilaniò la ex Jugoslavia. Da Minerva Raro Video, un DVD di qualità video più che dignitosa, di pari livello le due tracce Dolby Digital, due canali italiano e lingua originale macedone. Come extra segnalo questo interessantissimo backstage di 30 minuti, oltre a un libretto di approfondimenti. Bene, allora Claudio, questo per quanto concerne Before the Rain. Grazie per averci raccontato tutte le novità in un video. Appuntamento alla prossima settimana. Un saluto, a presto. E allora siamo arrivati alla fine della nostra corsa. L'appuntamento va fra 7 giorni, come sempre il sabato alle 18, la domenica alle 15, la Rosa Purpura, l'ora di cinema settimanale di Radio 24. Sarà una settimana molto molto densa, ben 8 nuovi film che arrivano in sala, tra cui alcuni lavori molto attesi come per esempio La Talpa di Thomas Alfredson, oppure L'Industriale di Giuliano Montaldo, oppure Shame, il film scandalo con Michael Fassbender del Festival di Venezia. Insomma, la stagione ricomincia a lievitare dopo le feste di Natale. Noi ci saremo per raccontarvi tutto il cinema che c'è. Un saluto da Franco D'Assisti.